La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a questa nuova puntata della Quota Rosa. Oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore: la crisi, le donne, la crisi e gli aborti. Aumentano le richieste di aborti purtroppo per colpa della crisi. Il caso è stato tirato fuori dalla clinica Mangiagalli di Milano e praticamente c'è un'inversione di rotta. Un anno e mezzo fa l'ospedale era stato al centro di un baby boom, invece adesso le liste d'attesa per gli aborti passano da 7 a 10, 12 giorni perché, beh, colpa della crisi, o almeno così sembra. Noi abbiamo in linea con noi Paola Marozzi Bonzi, direttrice del Centro Aiuti alla Vita della clinica Mangiagalli di Milano. Buongiorno. Buongiorno, 1700 interruzioni di gravidanza all'anno. Che cosa ha notato lei in questi ultimi mesi? Dunque, da noi le persone sono sempre arrivate molto numerose. In questo periodo devo dire che, oltre a questo fenomeno delle persone così in larga scala, ne sono arrivate molte di più italiane, perché evidentemente le condizioni economiche sono diventate più a rischio e quindi mettere al mondo un bambino sembra essere una cosa molto più difficile di qualche tempo fa. E quindi praticamente le italiane scelgono di abortire perché hanno paura di un futuro che diventa sempre più difficile a livello economico. Ma è proprio un futuro, direi, istituzionalizzato, nel senso che i contratti sono sempre contratti a termine, per cui non prevedono poi la maternità e l'intervento dell'INPS. I precari sono notevoli. I contratti, cioè i lavori in nero altrettanto, quindi questo non dà nessuna stabilità a quello che può essere il loro futuro, per cui il primo a farne le spese è questo bimbo che a un certo punto non ha come diritto di nascere e le donne se ne privano, direi anche piangendo, perché quando si vanno a vedere nella stanza dove attendono l'intervento, 6 donne su 10 piangono. Allora io dico sempre che se piangono forse è perché stanno soffrendo, e quindi questa è la considerazione, insomma. Quindi se piangono magari non vogliono abortire. Ricordiamo che il 12% delle donne che chiedono di abortire sono disoccupate, il 3% in cerca di lavoro, il 10% studentesse, il 12% casalinghe. Allora, noi abbiamo con noi anche 2 parlamentari e inizierei da Sandra Zampa del Partito Democratico, membro della Commissione parlamentare per l'infanzia. Lei vede una relazione tra aborti e condizioni economiche della donna? C'è sempre stata questa relazione, però adesso si va aggravando? Purtroppo ce lo dicono i dati, ce lo dice anche la nostra vita, nel senso che credo che sia esperienza comune di tutte le donne sapere e sentire che la maternità è una cosa bella, che dà felicità, che dà gioia, e che privarsi di questa possibilità è un grande dolore. Credo anch'io che quello che poco fa è stato detto dalla direttrice della Mangiagalli, dalla dottoressa, sul fatto che piangono, debba far piangere anche noi, deve far piangere tutta la società, una società che ha paura e che non è più capace di sostenere le donne nel proprio desiderio di maternità, è certamente una società piena di dolore e che non può funzionare perché non riesce a guardare al futuro. La crisi economica è grandissima e soprattutto ha ingenerato una grande paura, ed è impossibile o almeno è molto più difficile accogliere una nuova vita quando si ha paura. Per questo credo che la politica debba oggi essere investita in maniera molto forte di questo problema. Guai alla politica che non sa dare risposte davvero alla vita. Si è fatta molta retorica su questo tema del diritto alla vita e della tutela della vita. E io credo che sia venuto il momento invece di mettere in atto molte azioni positive per permettere alle donne di avere figli. Quello che preoccupa dei dati che sono venuti fuori dalla Mangiagalli è che tornano ad abortire, a chiedere di abortire anche donne italiane. Questo fenomeno, che era in grande diminuzione invece, purtroppo riguardava l'interruzione di gravidanza, riguardava sempre di più le donne immigrate, ma si sapeva dalle indagini, dagli studi, che era anche un problema di conoscenza e quindi di strumenti eventualmente per non dover poi fare ricorso all'interruzione di gravidanza tra le donne immigrate. Mentre nelle donne italiane c'era un progressivo abbandono dell'interruzione di gravidanza, fino a farci dire che appunto la legge per la tutela della maternità funzionava bene. E questo il dato preoccupante. E allora certamente mi colpiva, per esempio, raccontato dal Corriere della Sera, il caso della signora che era stata convinta appunto alla Mangiagalli a rinunciare all'aborto in cambio di un assegno di 200 euro garantito per un certo numero di mesi, quasi 2 anni, una borsa della spesa ogni 15 giorni e la fornitura per un anno dei pannolini gratis. Io credo che questa sia la dimostrazione che le donne chiedono di essere semplicemente sostenute ed aiutate in un paese che le ha poco sostenute e poco aiutate da sempre, le ha penalizzate nel lavoro, nella carriera, dove ancora c'è molta fatica, troppa fatica sulle spalle delle donne nelle famiglie. Quindi che occorre mettere in atto delle azioni concrete. Allora, io la interrompo perché abbiamo in linea con noi Chiara Moroni del Popolo della Libertà. Abbiamo sentito la denuncia di Sandra Zampa, Partito Democratico. Abbiamo sentito la denuncia della Clinica Mangiagalli di Milano. Le interruzioni di gravidanza delle italiane, o non solo delle immigrate, sono aumentate per la crisi economica. Che cosa bisogna fare per far sì che una donna abortisca volontariamente, ma non perché sia costretta ad abortire? Chiara Moroni. Buongiorno innanzitutto a voi e agli ascoltatori. Ma allora, certamente io credo che in tutta la discussione che spesso ci troviamo a fare rispetto al dramma di un'interruzione di gravidanza, il tema dell'influenza economica sulla decisione è da un certo punto di vista il più drammatico, nel senso che credo che tutti condividiamo l'idea che mai e poi mai può essere un input e una difficoltà di tipo economico a spingere la donna a fare una scelta così drammatica come rinunciare a una gravidanza e a un bambino. Credo che da questo punto di vista evidentemente la crisi economica influisce, quindi in realtà non mi stupisce fino in fondo il fatto che siano aumentate le situazioni di gravidanza fra le donne italiane. Questo è un tema soprattutto di, credo, servizi complessivi che lo Stato è in grado di dare, di rete di protezione sociale, di aiuti che lo Stato è in grado di dare alle donne rispetto a una gravidanza, ma soprattutto nel momento in poi in cui viene al mondo un bambino, di aiuto e di sostegno di una rete sociale di protezione e di solidarietà rispetto alla cura del bambino, dei bambini, eccetera. Oggi siamo evidentemente in un momento particolarmente critico e credo che nell'affrontare la crisi economica, in cui bisogna pensare a rimettere in moto i consumi, a rimettere in moto le aziende, a rimettere in moto la domanda, non si possa dimenticare l'aspetto più deflagrante della crisi, che è quello di tipo sociale. Io credo che non sia lo strumento, come dire, dei bonus, una tantum, eccetera, sia uno strumento che può essere utile, ma che lascia un po' il tempo che trova. Io credo che soprattutto in un periodo così di crisi bisogna affrontare dal punto di vista sistematico la rete di protezione sociale, di aiuti che le donne possono avere nell'affrontare non solo una gravidanza, ma poi la cura di un bambino e quindi il sostegno che necessitano anche per in qualche modo conciliare i tempi di cura e i tempi di vita e di vita lavorativa, quindi, che diventa ancora più importante in un momento di crisi in cui nelle famiglie uno stipendio non è sufficiente. Quindi lei non crede a questa proposta dell'avvenire di una social card contro l'aborto, cioè praticamente l'impoverimento e la precarizzazione dei rapporti di lavoro si combattono, dice il giornale della CEI, con gli strumenti di politica economica, e quindi bisognerebbe dare i sussidi alla maternità, un anticipo di 6-8 mesi della concessione della social card oggi prevista per i nuclei familiari meno abbienti. Lei non crede a questa proposta, per esempio, di avvenire? Ma questa potrebbe essere una proposta, adesso bisogna evidentemente vederla nel dettaglio, perché poi, come dire, questo può essere un aiuto immediato anche utile. Credo che però accanto a questo il nostro paese debba strutturare un sistema di aiuto alle donne che vogliono avere una gravidanza più solido e strutturato e permanente. La quota rosa. E torniamo a parlare di aborti e crisi, di crescita degli aborti con la crisi economica. A causa della crisi economica c'era la professoressa Paola Marozzi Bonzi della Mangiagalli che voleva aggiungere qualcosa, forse a questa proposta di avvenire della social card? No, non solo questo, nel senso che tutti gli aiuti economici che si possono mettere in campo vanno benissimo, perché di questo moltissime donne hanno bisogno. Vorrei però che questi aiuti fossero in qualche modo il segnale che le donne non sono da sole. Questo assegno, per esempio, che noi che siamo volontari eroghiamo nei confronti delle donne per 18 mesi, vuol dire che siamo con loro, che condivideremo i problemi man mano che verranno avanti, che quando il bambino sarà nato ci saranno delle altre provvidenze, eccetera, eccetera, perché la solitudine spaventa forse anche di più della carenza di mezzi economici. Non dimentichiamoci questo aspetto, perché davvero mi sembra molto importante. Essere vicine alle donne è qualcosa che è un investimento per la società, e quindi mettiamoli in atto, insomma, tutto ciò che è possibile perché i bambini nascano, sono il nostro futuro. Dottoressa Elsa Viola, vicepresidente della GOI, Associazione Ostetrice Ginecologi Ospedalieri Italiani, qual è la situazione al momento? Lei vede una tendenza a un aumento di aborti con la crisi? Buongiorno. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Ovviamente concordo come donna, ma anche come medico, su quanto già hanno espresso le parlamentari, e certamente la politica ha un ruolo fondamentale nel permettere alle donne una scelta libera e consapevole della maternità, anche perché sappiamo che purtroppo le donne hanno, o per fortuna, hanno certamente il carico maggiore della genitorialità. Ritengo però, permettetemi di riportare i dati reali, che sia prematuro in questo momento giungere a delle conclusioni considerando il trend temporaneo di alcuni mesi presso un singolo ospedale, perché va precisato che gli ultimi dati nazionali attualmente disponibili, forniti dal Ministero della Salute, che sono quelli ufficiali, sono stati pubblicati il 21 aprile 2008 e si riferiscono all'anno 2006 con i dati preliminari del 2007. Questi confermano questa lieve tendenza alla riduzione, con un trend che è costante dal 1989 in poi, che si è verificato anche tra il 2006 e il 2007. I dati del 2007, quelli preliminari del 2008, li avremo con la consueta relazione del Ministro della Salute nei giorni prossimi, ad aprile-maggio 2009. Quindi, certamente se i dati della clinica Mangiagalli sono questi, ne prendiamo atto. Io posso riportare pur considerando i limiti di questi dati, i numeri che mi sono stati resi disponibili dalla direzione sanitaria dell'azienda Sant'Anna di Torino, dove vengono effettuati oltre 3.500 IVG all'anno e oltre 3.000 parti all'anno, quindi è un dato di una singola azienda, ma di una IVG azienda... interruzione volontaria di gravidanza, tanto per sottolineare. Certo, sì, esatto. Usiamo il termine IVG, interruzione volontaria di gravidanza. Ecco, da questi dati, gentilmente fornitemi dalla direzione sanitaria, in realtà è stato osservato nel 2008 e anche nei primi due mesi del 2009 dei numeri costanti, quindi in questa esperienza, che forse però numericamente dovrebbe essere circa doppia di quella della clinica Mangiagalli, non confermerebbe questo aumento. E anche la percentuale di donne straniere è costante, cioè non è proporzionalmente diminuita. Ovviamente quindi sono dei dati che andranno ripresi nel futuro, avendo poi a disposizione dei dati nazionali, perché adesso sono dei dati in cui abbiamo una ospedale, che è la clinica Mangiagalli di Milano, che segnala un trend in aumento, e abbiamo altri dati di un altro singolo ospedale, pur numericamente consistente, che è il Sant'Anna di Torino, che invece ci dà dei dati con un trend costante. Quindi insomma lei dice non è tutto negativo, però io quello che vorrei chiedere alle nostre parlamentari, ora io non vorrei aprire un capitolo che ha a che fare in questi giorni con le polemiche sul Papa eccetera, però quanto influiscono le parole di un Papa che dice anche riguardo all'Africa il preservativo non è l'unica lotta, ecco, diciamo così, per frenare la AIDS, insomma quanto influiscono le parole di una chiesa che continua un pochino a scontrarsi con quello che sono i metodi anticoncezionali. Chiara Moroni, PDL. Area laica, però aggiungiamo. Più che area laica, direi a questo punto laica appunto, al di là delle aree, eccetera. Ma io immagino che il Papa fa il suo mestiere, io questo dico molto chiaramente, cioè nel senso, semplificandola anche un po', parla ai fedeli, parla alle coscienze dei fedeli, e quindi è chiaro che chi è osservante e praticante prende come punto di riferimento le parole del Papa, e quindi perché ha una serie di valori di riferimento. Cosa diversa è quello che riguarda invece le istituzioni, lo Stato laico e le scelte che deve fare in termini di governo e di Parlamento e legislative, di sostegno, di aiuto e individuazione di un percorso di sviluppo per il Paese e per la società italiana. Per me il problema è che le parole del Papa devono rimanere, rivolte ai fedeli, ai cattolici, a chi lo prende come punto di riferimento. Cosa diversa è, e su questo alzo la bandiera dello Stato laico, è che queste debbono influire poi nelle scelte del legislatore, nel senso che personalmente io trovo inconcepibile che la Chiesa promuova il non utilizzo del preservativo quando il continente africano è devastato dalla piaga dell'AIDS. Dopodiché però parla una comunità di fedeli, io faccio il legislatore e credo che invece noi dobbiamo fare delle campagne di promozione di utilizzo dei preservativi. Ma soprattutto la cosa si incrocia nel caso del preservativo, appunto proprio per le malattie sessualmente trasmettibili. Però io quello che volevo... Ma anche come prevenzione delle gravidanze indesiderate. Certo, certo, sì, però lì ci sono anche altri metodi, nel senso che una coppia può scegliere di prendere la pillola. Appunto per questo volevo un attimo richiamare Paola Marozzi Bonzi, direttrice del centro aiuti alla vita della clinica Mangiagalli. Lei ha detto: io vedo queste donne che piangono, vengono ad abortire e piangono, e a noi questa cosa ci ha toccato particolarmente come donne. Non c'era, visto che sono persone italiane, quindi istruite, sanno benissimo come evitare una gravidanza indesiderata. Non c'era la possibilità prima di pensarci un pochino prima? E soprattutto, che cosa? Allora piangono perché magari prima lo volevano e poi la crisi le ha costrette a non volerlo più. Ecco, questo. Ma dunque, bisogna tenere sempre conto di come è il femminile. Allora, il femminile a livello proprio costituzionale è fatto anche di ambivalenza, che non vuol dire una cosa negativa, ma così è, e di senso di inadeguatezza. Allora, queste cose, se si bilanciano con una sensazione di speranza, di sostegno, eccetera, la gravidanza va avanti, altrimenti insorge davvero un senso di scoramento, di solitudine, quasi di disperazione, per cui davvero la donna si sente tutto sulle spalle e crede di non potercela fare. Sandra Zampa, PD, membro della Commissione parlamentare dell'infanzia. Io ho citato appunto la polemica sul Papa, perché questa polemica poi ha dato il via a questa proposta dell'Avvenire, ricordiamo il quotidiano della CEI, dei Vescovi Italiani, che propone una social card contro l'aborto. Lei come la vede questa proposta? Guardi, la mi riconosco, ho sentito molto vere le parole della professoressa Bonzi, sia nell'intervento precedente che in questo. La monetarizzazione dell'aiuto è certamente un sostegno, nulla va trascurato, ma di sicuro le donne hanno bisogno anche di non sentirsi sole, di certo hanno bisogno di sicurezza, proprio perché quel loro senso di inadeguatezza e quel senso di disperazione che può coglierti in certi momenti lo si combatte solo con la sicurezza, per esempio il lavoro è certamente la condizione dalla quale bisogna partire, perché la crisi economica, tra l'altro, non colpisce soltanto donne che avevano già lavoro e che magari lo perdono e che fanno molta più fatica degli uomini a trovare un nuovo lavoro, ma colpisce moltissimo questa nuova grande piaga dell'occupazione, che è la precarietà. Quindi noi ci troviamo di fronte, tra l'altro, a donne in età fertile che sono per lo più precarie, perché poi semmai ci si riesce, tra virgolette, a sistemare avanti negli anni, cioè ad avere compensi. Quando poi i bambini non vengono più. Esattamente, quando i bambini non li puoi fare più, quando a quel punto magari te li puoi permettere, tra virgolette, e invece ci devi rinunciare. Allora, la politica deve dare queste risposte. Insomma, ci sono degli strumenti politici, ecco, questo lei ci sta dicendo. Io la interrompo perché siamo in chiusura, ma volevo un attimo parlare con la dottoressa Elsa Viola, che ci ha detto appunto dell'Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani. Insomma, non è così grave, almeno speriamo che non sia così grave, la social card contro l'aborto, lei come la vede? Ma credo che possa essere certamente uno strumento, ma forse quello che è necessario è davvero una rete di protezione sociale, di solidarietà delle donne, che permetta alle donne di scegliere liberamente una maternità, che possano scegliere, che non è solo un problema economico. Noi speriamo che le donne possano fare le loro scelte indipendentemente dal momento economico, e speriamo sempre di più però nell'uso di profilattici, nell'uso di pillole anticoncezionali, nell'uso di anticoncezionali di qualsiasi tipo, affinché le donne possano finalmente non dover scegliere l'aborto. La quota rosa. Buongiorno, allora in questa seconda parte ci occupiamo di due personalità molto importanti dal punto di vista femminile. La prima è Angela Davis e la seconda, nell'ultima parte, sarà Christa Wolf. Angela Davis, che scrive un libro molto provocatorio, Aboliamo le prigioni, contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale. Ma chi è Angela Davis? Noi lo chiediamo a due professori di letteratura anglo-americana, il professor Alessandro Portelli, ordinario alla Sapienza, e poi la professoressa Marina Camboni, ordinario all'Università di Macerata. Allora, Alessandro Portelli, lei ha sempre studiato la letteratura afroamericana, ma chi è Angela Davis e qual è la sua rivoluzione? Ma Angela Davis è una militante politica, una militante comunista afroamericana che è stata allieva di Herbert Marcuse, fra l'altro, e docente universitaria, e coinvolta attivamente in gran parte dei momenti cruciali della resistenza, della rivolta afroamericana degli anni 60 e 70, penso soprattutto fu incriminata e dovette entrare in clandestinità a seguito degli eventi che riguardavano i Soledad Brothers, la liberazione di George Jackson. Quindi una persona che ha connesso sia la ricerca intellettuale, la ricerca teorica, penso per esempio a quel bellissimo saggio sull'uso della violenza nelle lotte di liberazione a partire da Frederick Douglass, dall'autobiografia di questo ex schiavo così importante nell'Ottocento americano, ha connesso appunto sia la riflessione teorica poi con una pratica politica radicale intensa e con un impegno, diciamo, in cui la sua identità di genere era poi assolutamente cruciale. Angela Davis è stata anche proprio esteticamente un'icona di un movimento che legava la liberazione di genere e la liberazione dal razzismo in un unico processo. Quindi un po' diversa dalla figura di Rosa Parks, per esempio, professore? Ma guardi, Rosa Parks è stato un personaggio assolutamente straordinario, perché contrariamente alle leggende e ai miti, Rosa Parks sapeva precisamente quello che faceva il giorno in cui rifiutò di cedere il posto su quel famoso autobus di Montgomery. Rosa Parks era una attivista cosciente dell'Associazione per il Progresso della Gente di Colore, come si chiamava quella sua organizzazione, e il suo gesto era stato accuratamente preparato. Quindi mentre ci hanno raccontato Rosa Parks come una povera vecchietta con i piedi doloranti che non ce la faceva alzarsi in piedi, Rosa Parks era tanto una donna relativamente giovane, una donna consapevole, una donna che aveva in mente un progetto politico di liberazione che perseguiva magari con strumenti diversi e con una visione diversa da quella dell'Angela Davis, ma che sicuramente si connetteva a tutta una visione politica di alta intelligenza. Quindi sono due donne straordinarie che in modi e forme diverse hanno contribuito entrambe a un processo di liberazione dal razzismo, a una presa di consapevolezza e una opposizione all'oppressione di genere e in questo senso quindi alla liberazione un po' di tutti noi. Allora, Marina Camboni, professore ordinario di lingua e letteratura anglo-americana all'Università di Macerata, nonché si occupa anche di pari opportunità all'interno dell'università, giusto? Sì. Ha un ruolo. Ecco, come vede questa nuova provocazione di Angela Davis, aboliamo le prigioni, quando anche il presidente Barack Obama ha detto sì, chiudiamo Guantanamo, chiudiamo comunque le prigioni che non rispettano determinati parametri. Insomma, Angela Davis vuole abolire tutte le prigioni o è semplicemente una provocazione tipica della sua natura? Io di Angela Davis vorrei sottolineare, scusi ma qui c'è un po' di rumore. Sì, sì, ma noi la sentiamo benissimo. Vorrei sottolineare due cose. Una è una pensatrice. Prima menzionavate Rosa Parks, devo dire che Angela Davis rappresenta un ulteriore passo in avanti del movimento antisegregazionista e antirazzista, che aggiunge una dimensione filosofica e critica molto importante. Ed è dentro questa dimensione di distanza critica che si inserisce tutto il suo discorso sulle prigioni come luogo ultimo in cui si manifesta il razzismo capitalista. Quindi diciamo che lei critica le prigioni perché poi a finire in prigione e a essere condannati alla pena di morte sono sempre e comunque molto più spesso gli afroamericani, è questo che intende sì, dire no, lei, professoressa? Fa un discorso ancora più profondo. C'è una politica che oggettivamente marginalizza i neri, c'è anche gli ispanici, non peraltro, diciamo le classi più povere, meno abbienti, e le associa al crimine. Professor Portelli, nella letteratura afroamericana c'è molto questa la prigione, il ghetto e soprattutto il fatto che molto spesso i neri vengono discriminati. A suo parere chi è lo scrittore che maggiormente rappresenta questo tipo di letteratura? Ma direi che ce n'è quanti ne vogliamo, appunto viene in mente naturalmente Richard Wright, ma direi che anche per esempio testi come Amatissima, Beloved di Toni Morrison implicano un'idea di violenza che è intrinseca proprio alla modalità con cui la società istituisce i rapporti fra le persone. Quindi in questo senso a me pare che l'osservazione di Angela Davis colga non soltanto la dimensione clamorosamente discriminatoria del sistema carcerario degli Stati Uniti e anche il suo sovradimensionamento, cioè gli Stati Uniti sono il paese che ha la proporzione di carcerati sulla popolazione infinitamente più alta di tutto l'Occidente, e quindi, ma anche un'idea di che cosa è crimine e quali sono i crimini reali che si compiono nei nostri rapporti sociali di tutti i giorni, cioè la criminalità dell'oppressione, la criminalità dell'impoverimento, della radicalizzazione della differenza di reddito fra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Cioè, mi pare che fin dall'inizio del suo pensiero Angela Davis abbia individuato una direzione di critica alla società come società criminale, e questo lo ritroviamo poi in altri scrittori afroamericani come Chester Himes per esempio, ma non soltanto afroamericani. L'ossessione per il carcere, la riflessione sul carcere per esempio c'è in scrittori come Norman Mailer, che sono magari meno cari ma che su queste cose hanno molto ragionato. E c'era un bellissimo libro di un critico americano, Bruce Franklin, sulla letteratura del carcere, in cui cominciava proprio dalle autobiografie degli schiavi da una parte, ma anche da certi libri di Herman Melville sulle navi militari come istituzioni totali, istituzioni chiuse, istituzioni repressive. Ricordiamo, cioè, Herman Melville per il grande l'autore pubblico, di Moby Dick, l'autore di Moby Dick, no? Tanto per cercare sì, di... Sì. Senta, professore, ecco, ma un po' questa idea di una società in sé criminale che quindi esorcizza la propria criminalità inventando dei luoghi separati dove tenere alcuni criminali tra l'altro meno gravi. Allora, un'ultima domanda per lei e poi anche un'ultima domanda che è la stessa per la professoressa Gamboni. Quanto peserà il fatto di avere un presidente afroamericano nell'emancipazione dei neri d'America? O è solo una cosa che avviene ad alti livelli e non nei ghetti? No, a me pare che la reazione della gente nei ghetti è stata significativa, sia un fatto di grandissima importanza, che se non altro significa che a una presidenza a decenni di trascuratezza nei confronti dei diritti civili, se non proprio di ritorno indietro, adesso si sostituisce un'amministrazione che come minimo non sarà ostile. D'altra parte, certo, questo non significa che sia sparito il razzismo, così come il fatto che ci siano donne a capo di governi in Europa o anche fuori dall'Europa non significa che sia sparito il sessismo. In Italia no, sappiamo che non è così, in Italia non è sparito. Neanche questo. in Italia neanche questo, no? Però voglio dire, sono dei segni del fatto che non è più un marchio a priori, e quindi che in qualche misura dal colore della pelle, da un dato esteriore come il colore della pelle, si può passare a prestare attenzione a dati concreti e materiali come invece l'oppressione di classe, cosa che Angela Davis dice fin dal primo momento. Allora, professoressa Marina Camboni, la stessa domanda, siamo in chiusura: come un presidente come Barack Obama può spezzare, spezzerà questi pregiudizi, oppure comunque avviene ad alto livello e non a basso livello? Guardi, io sono assolutamente d'accordo con quello che dice il professor Portelli, penso che non basta un presidente di colore per cambiare un razzismo, diciamo, viscerale. Però è già un inizio di cambiamento, perché cambierà non solo, cambia la coscienza dei neri. Un'altra cosa che cambierà con Obama saranno anche i rapporti con gli altri neri, i neri fuori dell'America, con il senso di una qualche appartenenza più larga, come c'è stata negli anni 20 e 30 con il panafricanismo. Però io le vorrei dire anche che io sono presidente dell'Associazione di Studi Nordamericani, che fra il 4 e l'8 maggio si terrà al Centro Studi Americani di Roma un seminario proprio dedicato a questo tema, all'America post-etnica dopo l'elezione di Obama, e questo sarà l'argomento principale che si discuterà per 5 giorni dalle 9 alle 5. La quota rosa. E bentornati a quest'ultima parte, dove parliamo di un altro mostro della letteratura contemporanea. Abbiamo parlato di un mostro della sociologia contemporanea, adesso parliamo di un mostro della letteratura contemporanea. Christa Wolf compie 80 anni e Christa Wolf è una delle più importanti scrittrici tedesche contemporanee. Per parlare, per capire chi è e per farci suggerire anche alcune letture al femminile, come vuole la quota rosa, abbiamo con noi Ursula Bavai, professore ordinario di letteratura tedesca all'Università degli Studi della Tuscia a Viterbo. Buongiorno, professoressa. Buongiorno a lei. Allora, chi è Christa Wolf? Prima di tutto viene conosciuta, no, con Il cielo diviso, questo suo primo romanzo, che parla della divisione della Germania. Sì, è un romanzo del 63. E viene scritto, come dire, con il trauma ancora fresco della costruzione del muro che divide appunto la Germania. È stato un romanzo non accolto, diciamo, in Occidente naturalmente benissimo, ma nella Germania orientale non benissimo. Alcuni hanno detto che bel libro, altri hanno detto invece è un libro decadente, perché la protagonista, la prima protagonista femminile di grande rilievo del paesaggio femminile delle protagoniste appunto di Christa Wolf, era troppo dispiaciuta per questa divisione della Germania, per questa come dire, questo segno tangibile, no? Della divisione del muro, perché della divisione personificata dal muro. Christa Wolf nasce, ahimè, nella Germania nazista, e probabilmente la sua adesione senza reticenze nei confronti della DDR era dettata anche da questo senso di colpa che lei forse tra le prime ha condiviso nei confronti del proprio passato nazionalsocialista. Infatti per lei la DDR era un'occasione per costruire ci sono sempre questi sogni palingenetici, no? Per costruire l'uomo nuovo. Quindi lei praticamente nasce nel 29 e fa parte, cioè diciamo così, nasce nella Germania nazista e poi alla fine della guerra sceglie di andare nella DDR, tipo Bertolt Brecht. Ma è un caso perché loro, la famiglia si sposta perché stanno arrivando i russi, no? da est. Si sposta e per un puro caso finisce in quella che poi sarà la zona sovietica. Se avessero fatto qualche chilometro in più, probabilmente Kristavol sarebbe diventata un'altra scrittrice, o forse non sarebbe diventata neppure scrittrice, non si sa. Certamente, come sempre, la storia può essere anche molto molto casuale, nel suo caso lo è stato. Per pochi chilometri lei è diventata molte cose per la Germania orientale, una dissidente, così è stata vissuta all'interno e all'esterno, una scrittrice di Stato, così è stata vissuta soprattutto dopo la riunificazione della Germania, una femminista, un ecologista, una scrittrice sulla quale poter proiettare le proprie nostalgie nei confronti della Germania orientale, una Cassandra pessimista. E qual è secondo lei il suo capolavoro? Si parla molto di Cassandra. Sì, si parla molto di Cassandra. Certamente Cassandra segna una svolta nella sua produzione letteraria. La Germania orientale è diventata troppo stretta per lei. C'è una, come dire, un'interferenza dell'apparato statale nella sua vita emotiva più che altro, ovviamente anche politica, ma soprattutto emotiva. A quel punto lei sceglie di scavalcare le frontiere e va verso il mito, non solo verso la Grecia, ma verso il mito. Cassandra nasce a seguito di un, lei questo lo racconta nelle premesse a Cassandra, a seguito di un viaggio che lei compie in Grecia. E Cassandra è una eroina tipicamente di Christa Wolf, cioè è una donna sola che lotta da sola e che appunto soccombe. Però forse il suo capolavoro in assoluto è Medea. Medea è sempre una figura mitologica, ma lei la rilegge in tutt'altra chiave, cioè Medea non è colpevole, ma Medea di aver ucciso i suoi figli, no, non è colpevole. No, non è colpevole di aver ucciso i suoi figli perché non è lei che ha ucciso quei figli, ma è una, come dire, un modo di neutralizzare la sua come dire, la sua scoperta di aver lo stato nel quale appunto lei è andata a vivere, Medea, si basava su un assassinio della figlia del re, e Medea lo scopre e quindi lei subisce una specie di condanna della storia, della mitologia alla fine. Quindi non è lei la responsabile. È un testo molto bello perché non è un testo soltanto al femminile, è un testo che mette a nudo le strutture del potere, ma non solo, mette a nudo le bassezze umane, cioè è un testo. Ecco, se uno parte dall'idea che Christa Wolf sperava nell'uomo nuovo e sperava di poter trovare, per esempio, nella DDR uno Stato che potesse realizzare quest'utopia, Medea è una dichiarazione di resa, perché lei lo dice quando propone il manoscritto alla casa editrice tedesca, dice: bene, io ho scritto un romanzo che fa vedere che da quando c'è storia gli uomini si comportano sempre allo stesso modo e sempre così si comporteranno, cioè spinti dall'invidia, spinti dalla cattiveria, dalla perfidia e dal potere. Quindi Medea è molto di più di una soltanto una figura femminile nel panorama femminile o femminista diciamo, di un femminismo soft di Christa Wolf. Quindi insomma noi la ringraziamo, perché grazie alla professoressa Ursula Bavai abbiamo una idea maggiore di chi è Christa Wolf, che ricordiamo in questi giorni compie 80 anni. Noi facciamo i nostri auguri a questa grande scrittrice tedesca. E invece prima di chiudere vi voglio ricordare un'iniziativa, Nuove Creatività del Mondo. I vincitori di tradizione del concorso internazionale Federcultura per giovani artisti espongono alla Camera dei Deputati dal 26 marzo, quindi da giovedì, al 3 aprile, e dobbiamo anche dire che i vincitori di quest'anno, guardate un po' che strano, sono tutte donne, ovviamente. Allora, ricordiamo Nuove Creatività del Mondo, esposizione a Vicolo Valdina, Camera dei Deputati. Io ringrazio Paolo Corleone in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quatarosa @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.